Sostanzialmente il rapporto del CPIL che prevede la manovra al 2,4% rimane innanzitutto ben al di sotto di quel vincolo del 3%, che ovviamente è una formula magica e anche il suo autore ha sempre sostenuto che non c'è niente di scientifico in quel rapporto. E averlo al 2,4%, che tra l'altro è soltanto lo 0,1% in più rispetto a tutte le misure dei governi precedenti, quello di Gentiloni, sostanzialmente ci mostra che questa è una manovra ancora austera. Non è vero che è una manovra che si dà per espansiva, rivoluzionaria e niente. Ovviamente però lo scontro con l'Europa, perché l'Italia essendo un laboratorio politico e economico, rimane alto perché l'Europa tende a mantenere uno stato fortemente austero e quindi anche se vogliamo di svalutazione interna l'Italia. Quello che però non si dice, che non è tanto il rapporto del PIL che davvero ci interessa, ma è guardare appunto cosa succede all'avanzo primario, che in realtà l'Italia nei confronti dell'estero ha un avanzo primario da 20 anni in positivo, ma soprattutto appunto non possiamo parlare di una manovra espansiva, soprattutto quando poi andiamo ad analizzare i contenuti di questa manovra. E infatti io passerei adesso al tema del reddito di cittadinanza tanto sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Insomma, è vero come dice Di Maio che stanno abolendo la povertà? No, non è assolutamente vero che si abolisce la povertà, anche perché la povertà non si può abolire per legge, così come non è vero che questa sia una misura di libertà e di emancipazione per tutti quei soggetti, quelle persone e famiglie che si trovano in uno stato di povertà in Italia. Quello che bisogna dire è che è vero che Di Maio punta a spendere 10 miliardi, diciamo, per chi davvero si trova in uno stato di povertà assoluta e quindi è una situazione relativamente migliore agli 80 euro di Renzi, che invece erano solo 80 euro e che andavano comunque a chi già guadagnava un reddito. Partendo, diciamo, da questo, quindi relativizzando i due provvedimenti che poi costano alla stessa maniera per le casse dello Stato, quello che bisogna dire è che questo reddito di cittadinanza sostanzialmente innanzitutto è discriminatorio perché viene dato soltanto o agli italiani o a coloro che sono residenti da più di 10 anni in Italia, che ovviamente è una discriminazione. Poi è uscito dicendo che non saranno dati ai Rom, ma spesso i Rom sono invece cittadini italiani, quindi una doppia discriminazione anticostituzionale, ma allo stesso tempo i 780 euro che sbandiera sono fortemente condizionati e vincolati, uno in termini di spesa. La Castelli in questi giorni sta dicendo che non si possono comprare beni strumentali tipo da 1 euro perché la finanza controllerà, i vani non si possono spendere in sigarette e soprattutto non si possono risparmiare. Quindi al di là di questo tecnicismo, però quello che sappiamo è che il reddito di cittadinanza sarà condizionato comunque da un lato a prestare lavoro gratuito socialmente utile alle amministrazioni pubbliche. Su questo punto bisogna dire che quello che il governo avrebbe voluto fare con 10 miliardi era assumere 2 milioni di lavoratori nelle pubbliche amministrazioni perché ci mancano. Non abbiamo infermieri, non abbiamo insegnanti, non abbiamo avvocati nei tribunali, non abbiamo, diciamo, soggetti, lavoratori che si occupano del patrimonio artistico e culturale. Allo stesso tempo però il beneficiario del reddito di cittadinanza per continuare ad avere questo diritto dovrà accettare una delle prime 3 offerte di lavoro che gli vengono fatte, senza però definire quali possono essere queste offerte. Quindi questo significa che se l'offerta sarà l'ennesimo tirocinio a 450 euro, il beneficiario dovrà accettarlo. E questo che cosa significa? Significa svalutazione ancora una volta del lavoro, perché è obbligato ad accettare qualcosa che è inferiore al reddito di cittadinanza, che quindi non lo emancipa dallo sfruttamento intensivo sul lavoro, e allo stesso tempo si pone in qualche modo in una forza di svalutazione anche verso gli altri lavoratori, perché a quel punto questi sono i soggetti che vanno a costituire il vero esercito industriale di riserva e ricatteranno tutti gli altri lavoratori, perché gli imprenditori diranno: io posso assumere 450 euro un povero e possono non assumere invece con un contratto da 1000 euro un giovane che magari prima era assunto col tirocinio. Quindi c'è in qualche modo nel medio-lungo periodo, ma che secondo me non è neanche così lungo, un effetto deflattivo su tutti i lavoratori e quindi di impoverimento. Parlando invece dell'effetto che questa manovra avrà su industrie, su proprietari, diciamo, sulla parte più ricca dell'Italia, quale effetto avrà? Anche perché c'è stato di recente uno scontro, diciamo, sull'interpretazione della manovra tra Di Maio e Confindustria. Quindi è vero che è una manovra che a Confindustria potrebbe non piacere? In realtà Confindustria non ha di che dire perché gli sgravi sono rimasti e perché contro, diciamo, le imprese, appunto, si sta dando anche la possibilità di pagare sempre meno il lavoro, non si stanno vincolando minimamente rispetto agli incentivi su quelli che possono essere gli investimenti produttivi e anche per questo la manovra rimane non espansiva. Dall'altro lato però quello che fa la manovra in realtà è l'ennesimo regalo, se vogliamo, ai professionisti, perché aumentare la soglia di reddito per cui si applica soltanto il 15% di tassazione, quindi le partite IVA che guadagnano, quindi fatturano fino a 65.000 euro, è ovviamente una discriminazione al contrario, perché queste sono persone che significa guadagnare all'ordo circa 5.000 euro al mese, pagheranno molto di meno di un precario che invece verso il 34% alla gestione separata 5.000 euro magari li vede soltanto in 6 mesi. Quindi in qualche modo questa manovra in termini redistributivi è proprio il contrario, perché il reddito di cittadinanza sarà pagato comunque dai lavoratori che continuano a pagare tante tasse, e la redistribuzione dall'alto, cioè i ricchi che dovrebbero invece partecipare, se vogliamo, alla fiscalità generale, avranno, diciamo, meno imposizione fiscale. Quindi questo significa drenare risorse dal basso verso l'alto per l'ennesima volta. Quindi, insomma, in conclusione, questa manovra non è, come viene presentata dal governo, una manovra di rottura nei confronti degli eurocrati piuttosto che nei confronti delle imprese? No, nel senso che questa manovra ovviamente dal punto di vista degli hashtag e degli slogan viene presentata come qualcosa di rivoluzionario. In realtà è una manovra in piena, pienissima continuità rispetto a quelle che sono le linee di politica economica dei governi precedenti, seppur con qualche variante, l'abbiamo detto all'inizio. Lo scontro con l'Europa ovviamente è dato da una messa in qualche modo davanti allo specchio, la forzatura, ma dentro comunque gli stessi schemi, gli stessi privilegi da garantire, perché se avessero detto sforiamo il 3% perché facciamo investimenti, creiamo occupazione, quello era davvero, diciamo, uno scontro con cambio di rotta, questo è uno scontro dentro la stessa rotta. Perfetto Marta, io ti ringrazio e ti saluto e accolgo l'occasione per farti i complimenti, perché so che domani si celebrerà l'anniversario dell'uscita del tuo libro Non è lavoro e sfruttamento. Sì, esatto, fa un anno e siamo tutti molto orgogliosi di questo piccolo libro, grazie.